Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. La scena è questa. Il ministro Speranza che illustra le nuove misure e la proroga dello stato d'emergenza e l'aula della Camera che fa mancare il numero legale. L'opposizione che esulta. Non una scena particolarmente edificante. Oggi dovrebbe comunque arrivare la stretta sull'uso della mascherina. A quanto pare sarà obbligatorio portarsela dietro, pena una multa, e anche su questo ci si divide. E i numeri cosa raccontano? Di 4 persone in meno in terapia intensiva, ma di 180 in più ricoverate. È un numero di positivi che cresce. Di nuovo un nuovo focolaio in una casa di riposo a Napoli e di una campagna che si scopre suo malgrado al centro della scena. Il resto della giornata ci racconta invece delle polemiche per le modifiche ai decreti Salvini, delle CT della Nazionale che polemizza con i ministri sulla ripartenza del calcio. A proposito, nota sportiva. Ieri sono finite due favole, quella di Martina Trevisan e di Jannik Sinner, entrambi sconfitti ai quarti di finale a Roland Garros. Il secondo dal re della terra, Rafa Nadal, ma nessuna amarezza, la notizia è nella conferma della ottima vitalità del tennis italiano. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. Mattino di Simone Spezia. Sono le 6, 32 minuti e 30 secondi, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, mercoledì 7 ottobre. C'è Carmelo Lauricella in regia, c'è Alessandro Marco Tulli in assistenza e redazione, in redazione anche Gloria Guerrera, Giorgio De Luca, i nostri autori Margherita Ina e Francesco Ciaraffo. Per un paese che si divide sulle mascherine, queste mascherine, l'obbligo è dittatura sanitaria o semplicemente una regola dettata dal fatto che molti italiani, che alcuni italiani non rispettano la precauzione, le precauzioni, le giuste precauzioni. Ci si divide su questo, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, per le vostre voci, gli SMS, tutto quello che volete. Con il Covid che continua a dominare la scena anche calcistica, ci sono le parole di Mancini di ieri contro i ministri Speranza e Spadafora, c'è la notizia che al Napoli c'erano solamente 2 positivi, Zielinski ed Elmas, e quindi forse il Napoli poteva partire per Torino. Intanto da Torino arriva un'altra notizia, che la ASL denuncerà in procura o segnalerà in procura tutti i calciatori che si sono allontanati dall'isolamento e sono quelli che però poi sono andati in nazionale. Ronaldo, tanto per fare un esempio. Tutto un po' paradossale, devo dire la verità, tutto un po' paradossale. E poi c'è la giornata di ieri alla Camera, che guardate, francamente quello che è successo ieri è imbarazzante, il tutto. Stiamo parlando dell'argomento più importante di questa fase storica, non solamente di questo momento, di questa fase storica, ed è la questione sanitaria correlata a Covid-19. Ebbene, il ministro Speranza interviene, l'aula fa mancare il numero legale 2 volte, l'opposizione esulta. Però, visto che stiamo discutendo di mascherine, e molti dicono: ah, ma che fastidio portarla. Vi vorrei far sentire una deputata di Italia Viva che è intervenuta ieri in aula. Si tratta di Lisa Noia. E qual è il punto? Che è affetta da SMA, atrofia muscolare spinale. E ci segnala anche il fatto che i nostri parlamentari questo fatto di portare la mascherina mica lo rispettano tanto. Sentiamola, va. Perdonatemi, però io trovo che sia mortificante avere la presidenza che quotidianamente deve invitare in quest'aula al rispetto delle regole di base, deve invitare a tenere le mascherine correttamente, deve invitare a tenere le distanze. Scusatemi, io so che tenere le mascherine è faticoso. Io faccio molta fatica a tenere la mascherina, perché ho delle difficoltà respiratorie serie. Allora, se la tengo io per 8 ore, non c'è nessuno in quest'aula che non abbia la possibilità di tenerla. Tutti ad applaudire, poi bisogna vedere se se la mettono. E bisogna vedere soprattutto se stanno in aula, perché sentiamoli questi due passaggi. Il ministro Speranza che parla e che dice qua non c'è da dividersi, E poi Ettore Rosato, che in quel momento sta presiedendo la Camera dei Deputati, che dice guardate, manca il numero legale, e l'opposizione che esulta. Anche qui voglio dirlo con tutto il garbo possibile, ma sarebbe profondamente sbagliato dividersi su questo. Qui non c'entra la politica, non c'entra destra e sinistra, sono le indicazioni della comunità scientifica internazionale per provare a contrastare il virus. I colleghi hanno votato tutti, dichiaro chiusa la votazione. Manca il numero legale. Colleghi, non mi sembra mai una cosa da festeggiare la mancanza del numero legale. No, non è da festeggiare, ci pare da queste parti. Voglio dire, l'ascoltatore ci scrive, ma che paragone fa la parlamentare, provi in fonderia a portare la mascherina 8 ore. Guardi che la parlamentare si riferiva ai suoi colleghi, non a quelli che stanno in fonderia. Diceva ai suoi colleghi, guardate, se io che ho una malattia degenerativa e che faccio fatica a respirare tengo la mascherina per 8 ore qua dentro, non si vede per quale motivo non ve la dobbiate mettere anche voi, non dobbiate rispettare le distanze. Ed è incredibile che la presidenza, non la presidenza del Consiglio, la presidenza della Camera debba ogni volta richiamare al rispetto di queste regole. Francamente, cara Elisa Calessi, inviata di Porta a Porta e collaboratrice di Libero, che dunque dopo il primo appuntamento con noi, nonostante l'orario, ha deciso che, beh, tutto sommato, sì, dai, si può tornare, si può fare, si può fare una volta ogni tanto. Ce l'hai fatta. Cara Elisa, nulla di bello ieri, nulla di edificante, mi pare, alla Camera. Ma sai, io frequento, adesso un po' meno, però ci vado ancora, insomma, alla Camera e ogni tanto, e effettivamente il clima di paura si sentiva già un po', e come del resto dappertutto. Certo, nel cuore delle istituzioni ci si aspetterebbe un presidio, perché io devo dire, non mi scandalizzo della paura, perché i deputati sono come noi, però detto questo, si prendono le misure di precauzione, cioè ci sono i medici, gli infermieri, che immagino anche loro abbiano paura, però prendono le loro misure di precauzione e vanno al lavoro e svolgono il loro compito, esattamente come lo deve fare un parlamentare. Adesso non voglio, non è un problema, sarebbe facile dire con i soldi che prendo, non è quello. Il problema è che ognuno di noi ha un compito nella vita, loro hanno il compito di rappresentare il popolo italiano, fare le leggi, lo devono fare, devono prendere le loro misure. La deputata che avete fatto sentire noi ha ragione, mettessero la mascherina sempre, e a quel punto non ci sono rischi. Dopodiché è vero che c'era anche un problema, che alcuni erano in quarantena, una quarantina erano in quarantena, però dai calcoli, insomma, io ieri ne ho scritto, dai calcoli risulta che gli assenti erano più dei parlamentari in quarantena. Questo è. Comunque, appunto, diciamo, no, non una bella scena, certo, in parte dettata dalla paura, come diciamo, però se uno vuole mascherine se le mette, la paura se la fa passare, se le mascherine le mette e il distanziamento lo tiene, la paura se la fa passare. Sentiamo ancora Speranza, da ieri che ci fa sapere ci saranno più controlli sugli assembramenti, per esempio. E per questo noi lavoriamo nelle prossime ore, chiaramente con gli strumenti che sono a nostra disposizione, per aumentare il livello di controlli, perché gli assembramenti sono un rischio reale che non possiamo permetterci e che rischia di favorire un'ulteriore impennata della curva. Dice Speranza, e questo è il grande tema di discussione, bisogna estendere l'uso della mascherina all'aperto. quando si ha a che fare, si incontrano persone con cui non si convive, l'utilizzo della mascherina è il primo strumento essenziale. E per questo la proposta che noi facciamo, a cui stiamo lavorando, è esattamente quella di estenderne l'utilizzo in maniera continuativa anche all'aperto. Dice il professor Matteo Bassetti, che sarà nostro ospite più avanti, alle 8.45, dice non c'è alcuna evidenza, alcuna prova che serva. Noi non abbiamo evidenza scientifica che la mascherina messa all'aria aperta serva. La mascherina può avere un significato nel momento in cui diventa un ricordo alla popolazione che c'è un problema, e allora mi va bene. La mascherina ha senso nel momento in cui io vado a meno di un metro da un'altra persona e sono in un luogo. Dino Cartabellotta di Gimbe. Però a me piacerebbe che si ragionasse in un'ottica, diciamo, di strategia complessiva di prevenzione della risalita della curva dei contagi, perché mettere la mascherina all'aperto per ridurre magari anche del 5, del 10% il numero dei contagi e poi avere dei mezzi pubblici straordinariamente affollati e non guardi, professore, andiamo, lei proprio a peggiorare. Che è un po' quello che avevamo sottolineato all'inizio, questa regola dell'80% nei mezzi di trasporto e l'80% di riempimento che si trasforma regolarmente, come da foto diffuse variamente da Roma e da Milano, che si trasforma regolarmente in un più del 100% di occupazione dei mezzi pubblici, ossia folla che cerca di entrare in metropolitana. Quindi dice giustamente Cartabellotta, sì, va bene la mascherina, va bene averla dietro, però facciamo attenzione ai luoghi dove davvero viene a mancare tutto, a partire dal cosiddetto isolamento sociale. Ti vorrei portare su quello che è un po' l'altro argomento di giornata, Elisa, che è quello dei decreti sicurezza. Sicuramente aspettavamo questo dopo regionali per vedere quali nodi sarebbero finalmente arrivati al pettine della maggioranza, e questo ci pare sciolto tra le proteste naturalmente della Lega, come prevedibile. Sì, è evidente che hanno aspettato i secondi ballottaggi, intanto per le questioni interne ai 5 Stelle, diciamo, per definire fino alla fine i nuovi equilibri, e quindi a quel punto Conte non poteva più dire niente, non poteva rinviare per l'ennesima volta le richieste del PD. Poi, secondo me, anche per non dare un assist alla Lega, a Salvini, prima dei ballottaggi, insomma, l'hanno fatto. Però adesso il problema non è risolto, ovviamente, perché il problema dell'immigrazione resta e soprattutto della integrazione resta. Quindi adesso io sono curiosa, adesso al di là delle modifiche, piacciono o no, giuste o sbagliate, adesso si apre il tema di far funzionare quello che non ha funzionato né con Salvini né prima col centro-sinistra. Vediamo se adesso funziona, perché il problema è una volta che queste persone sbarcano, che si fa? Non basta dire non bisogna tenerli sulle barche, sui barconi dove c'è Salvini. Adesso bisogna vedere che cosa il governo mette in campo per effettivamente far funzionare il meccanismo. Sì. Vediamo. Sì, qua c'è un ripristino. C'è un ripristino di fatto, cambia nome di nuovo il sistema di accoglienza, però di fatto c'è il ripristino di quello che era il vecchio SPRAR, ossia l'accoglienza da parte dei comuni. Adesso si chiamerà sistema di accoglienza e integrazione. Appunto, viene ripristinato quello che funzionava abbastanza, con molte abbastanza. sbavature in giro. Però ricorderete, io mi ricordo i pullman di questi migranti che venivano portati nei paesini con la rivolta delle persone. Io mi ricordo Goro, sarà anche perché io sono di Ferrara, quindi sì. Ricordo bene quella vicenda. Quindi insomma anche quel sistema aveva dei problemi. Sì. Vediamo se viene migliorato, sicuro che è bene per tutti. Vedremo, tra l'altro ne parleremo tra un attimo di questo. Sentiamo Salvini su questo, Carmelo, vai. Da quel che ho letto li chiamerei decreti clandestini. Si torna esattamente alla mangiatoia sull'immigrazione clandestina e ai permessi regalati a chiunque cammina per strada e agli sbarchi a migliaia. Non so cosa abbiano da festeggiare, onestamente. A testimonianza di un pezzo un pezzo di paese che la pensa sulle mascherine diversamente dal governo. Sto avendo un dialogo qua su WhatsApp con un ascoltatore, il quale dice: non ti viene da vomitare quando ti guardi allo specchio? Chiedo perché. Mi dice: per essere un servo non passerete, è solo questione di tempo, siete andati troppo oltre. Gli chiedo: su cosa? Sulle museruole all'aperto. Sulle museruole all'aperto, che sarebbero le mascherine. Allora, c'è un pezzo di paese che la pensa così, ne prendiamo atto, ne prendiamo atto. Diteci come la pensate voi. 349-238-6666, i vostri WhatsApp audio, le vostre voci. Ne parleremo poi più avanti alle 8.35. Traffico. E veniamo proprio alla questione dei decreti sicurezza, dei decreti Salvini, come decreti sicurezza o decreti Salvini, a seconda di come la vediate politicamente, no? Perché anche su questo, anche sul nome ci si divide. Ne vogliamo parlare con un'associazione che ha una posizione, è sempre stata contraria a questi decreti e che li chiamerà sicuramente decreti Salvini e non decreti sicurezza, per capire un po' come cambiano le cose. Siamo con Nazarena Zorzella, che è avvocato dell'ASGI, l'associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione. Buongiorno, Zorzella. Buongiorno. E benvenuta. Come dicevamo, voi siete sempre opposti a questi decreti fin dall'inizio. Qual è la vostra valutazione in generale delle modifiche che sono state apportate? Non abbiamo ancora il provvedimento di legge, detto che abbiamo solo un comunicato stampa del Consiglio dei Ministri, però quali sono le vostre valutazioni? Beh, le nostre valutazioni sono sicuramente positive, nel senso che l'approccio è completamente diverso da quello che ha caratterizzato i decreti in sicurezza. Più che i decreti sicurezza o decreti Salvini, secondo me sono decreti che hanno, quelli del 2018-2019, che hanno provocato una grande insicurezza, a cominciare dal fatto che hanno eliminato la protezione umanitaria. Questo nuovo provvedimento, che ancora deve essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale, è sicuramente positivo nella parte in cui ripristina in gran parte la protezione umanitaria, che non è una concessione ideologica né umanitaria, è semplicemente una rispondenza a degli obblighi costituzionali internazionali, gli stessi che il presidente Mattarella aveva richiamato quando venne emanato il primo decreto legge sicurezza. È sicuramente positivo il fatto che, e questa è una novità, ecco, che venga prevista la possibilità per vari permessi di soggiorno che sono attualmente temporanei o precari di essere trasformati in permessi per lavoro a fronte di un'attività lavorativa. E questo sicuramente. Mi scusi Zorzella, una nota sulla protezione umanitaria. Lei ricorderà quali erano le critiche che venivano mosse da persone che la pensano diversamente da voi. In parte per alcuni elementi apparivano fondate, ed erano queste: a volte la protezione umanitaria è stata utilizzata un po' come un permesso di soggiorno, nel senso che le maglie erano molto larghe. Non sono d'accordo su questo, nel senso che non è un problema di maglie larghe o maglie strette, era semplicemente l'attuazione, il vecchio articolo 5,6 del testo unico immigrazione, era semplicemente attuazione di obblighi costituzionali internazionali. Partiva dall'articolo 10 della Costituzione, che impone al legislatore di determinare il trattamento della persona straniera. Ricordiamoci che la Costituzione è stata fatta all'esito del periodo fascista, del periodo in cui gli stranieri erano di per sé i nemici. Ecco, l'articolo 5,6, cioè la protezione umanitaria, che è anche al di fuori del sistema dell'asilo, anche questo è sempre stato abbastanza non conosciuto, ecco, rispondeva a quell'articolo 10 della Costituzione che impone al legislatore di fare delle leggi che siano conformi alla Costituzione e agli obblighi internazionali. Era semplicemente quello, era una possibilità chiaramente che confluiva in un permesso di soggiorno, perché lo straniero è necessariamente obbligato ad avere un permesso di soggiorno laddove ci fossero obblighi costituzionali o d'obblighi internazionali. Adesso è stato ripristinato, ripeto, è lo stesso presidente Mattarella che al momento della firma del primo decreto Salvini ha richiamato la necessità di rispettare questi obblighi costituzionali internazionali. Sì. E anche dopo i Salvini si potevano attuare con molta, molta, molta più difficoltà e con il rischio che la persona nel frattempo potesse essere espulsa perché non aveva immediatamente il permesso di soggiorno. Veniamo a uno, a quello che è il cuore di una delle critiche che vengono mosse al ripristino di determinati del sistema di accoglienza degli ex SPRAR. Adesso si chiamerà sistema di accoglienza e integrazione. Il tema è questo, la famosa questione della mangiatoia, come la chiama Matteo Salvini, o come altri più morbidamente dicono, un sistema con il quale sostanzialmente ci si fanno i soldi senza assicurare degli standard minimi, non solo di accoglienza, ma anche di integrazione, che è il tema fondamentale. No, su questo ovviamente non sono d'accordo, nel senso che quello che sappiamo essere la riforma di questo ultimo del decreto legge che sta per essere pubblicato è un cambiamento, è l'esatto contrario di quello che pensa l'ex ministro dell'interno, nel senso che è stato rimesso al centro il sistema ex SPRAR, poi si proimi, adesso SAI, nel senso che diventa l'accoglienza diffusa, cioè l'accoglienza in piccoli centri distribuita sul territorio, che era il modello che ha caratterizzato lo SPRAR fino al 2018, viene ripristinato come sistema principale. Certo, non spariscono i CAS e noi ci auguravamo invece che i CAS sono i centri di accoglienza straordinari, lo ricordiamo, sono quelli di fatto gestiti dalle prefetture che molti problemi hanno generato. Esatto, hanno generato moltissimi problemi laddove sono stati improntati a grandi centri che chiaramente creano dei problemi sia per le persone che sono ospitate, perché stare in centri di 50, 100, 200, fino a 300 era immaginato dal decreto Salvini, chiaramente non è dignitoso per nessuno, nessuno di noi ci abiterebbe, e poi può creare problemi anche per la comunità proprio per la concentrazione. Ora, questo sistema doveva venir meno completamente, è stato in parte ripristinato il sistema precedente. Noi ci auguriamo che anche le prefetture, laddove non sia possibile ripristinare lo SPRAR, il SAI come si chiama adesso, ecco, abbandonino il modello dei grandi centri che tantissimi problemi hanno creato, e si vada a Zorzella verso un'accoglienza più diffusa, dite voi. Allora, io la ringrazio, grazie Nazarena Zorzella, avvocato dell'ASGI, e lo dico agli ascoltatori, molti ci stanno scrivendo, ovviamente su questo tema sentiremo anche, anzi lo faremo direttamente domani alle 6:45, sentiremo anche un'opinione diversa ovviamente da quella degli avvocati dell'ASGI. Buona giornata Zorzella, grazie, e grazie ad Elisa Calessi, inviata di Porta a Porta, e scrive anche per Libero. Ciao Elisa, buona giornata, alla prossima se vorrai. GR24, ci risentiamo subito dopo con la rassegna stampa. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it.